Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Ma che bella scolaresca. E benvenuti allora alla prima C. Io mi chiamo Ivo Chiesa. L'esperienza del quartiere della nostra famiglia nasce in Viale Trento. Il nostro è un negozio che appunto qui dagli anni 60 e grazie giustamente al papà e alla mamma poi faccio parte di una famiglia molto numerosa perché siamo 5 fratelli. Questo ci ha dato modo di vivere il quartiere quindi in un arco di tempo molto ampio perché già dai primi anni con le sorelle e successivamente poi con i miei fratelli, io domando scusa, dico sono l'ultimo, quindi sono il quinto e ho preso esperienza un po' da tutti e abbiamo vissuto il quartiere prima col papà e la mamma appunto a livello lavorativo perché è un piccolo negozio di giardinaggio riportato poi su materiali edili e questo ci ha dato modo di conoscere in quegli anni molte persone del quartiere perché all'epoca c'era non questa come si può dire costruzioni così sono andate a formarsi nel tempo e, essendo appunto un magazzino edile e quindi come penso ben sappiate c'erano mattoni, cemento e la gente si forniva qui proprio per dare la costruzione delle proprie abitazioni. Questo quindi ci ha fatto conoscere la zona e piano piano l'abbiamo vista crescere. Le scuole e magari gli istituti come adesso erano proprio qui vicino ed inoltre quello che ha aiutato molto è stato una parrocchia a livello francescano dove c'era proprio la locazione di frati un nutrito gruppo di frati che ha creato all'interno dello stesso piccolo quartiere la successiva espansione, ma questi frati hanno anche aiutato lo stesso quartiere, questi ci hanno aiutato a crescere e visto che non c'erano tutte le distrazioni che ci sono attualmente, quindi magari televisioni, Game Boy, telefonini e tutte queste cose qui, la nostra crescita era stata una crescita naturale, basata proprio sulle amicizie, sul piccolo rione che pian pianino si andava a formare. Voglio dire che siamo cresciuti con le palle fatte coi giornali, anche se sembra che sia giovane, ma ho la mia bella età di 42 anni, e però questo, non essendoci, ripeto, altre distrazioni, ci ha comportato a rimanere uniti e a vivere quei valori naturali. L'amicizia e il brione è andato a formarsi in questi anni. Come ho detto, non c'era, per esempio, l'Intercity, questa, diciamo, ultima costruzione, dove adesso praticamente sono raccolti 180 appartamenti. Non c'erano come al brione il polo scolastico, dove adesso abbiamo le scuole materna e la scuola primaria. Lì c'erano delle grandi cave o delle dove noi con le nostre biciclette, lo dico tranquillamente, ci rincorrevamo e facevamo il nostro divertimento. Le bici logicamente non erano tante, ce le prestavamo perché i tempi erano un po' ristretti da un punto di vista. Ci sbucevamo le ginocchia, penso quelle cose che conoscete tutti, però tutti si tornava a casa comunque felici e contenti. Il brione poi nel corso del tempo ha assunto logicamente uno sviluppo sia demografico che uno sviluppo logicamente urbanistico. Sono aumentate le famiglie, sono aumentate le case, come vi ho già detto, e questo ha portato comunque un po' una fase di distacco fra tutti questi grandi amici. Inizialmente erano dal Brione, ma dico dalle scuole dei frati Brione, e poi siamo passati alle Negrelli. Il ciclo scolastico è sempre stato comunque contenuto in questo piccolo quartiere. C'è stato il momento del gioco e questo ci legava molto. C'erano magari ci individuavano magari come vie, c'è stata via Mascagni, magari la prima, che sono queste case qua, vedete, dal Viale Trento dove ci troviamo, sono state le prime costruzioni che sono arrivate, diciamo, e da qui sono arrivate nuove famiglie, nuovi amici, e il pallone, logicamente, lo dico, era forse il nostro volano, se posso dirlo, o punto perno di ritrovo, perché ripeto, quello era. C'è stato il periodo delle cerbottane, c'è stato il periodo delle fionde. E cosa succedeva? Succedeva che bastava che uno arrivasse con la novità e tutti gli altri correvano dietro a fare le cose più belle, più decorate. C'è stato un po'. Poi non nascondo che abbiamo avuto anche la possibilità e la fortuna di avere il bosco della città, che è questa piccola, che penso che conosciate, piccola collina che vedete qui, proprio Io sono di lì. ecco, che ci permetteva anche i famosi giochi di guardia e ladra, Il di carrettino. carrettino, gli skateboard costruiti con i vecchi pattini a rotelle, magari delle sorelle più grandi come abbiamo avuto noi, non c'erano quelli di adesso. Ecco. Cos'è il carrettino? Il carrettino era la capacità di trovare quattro ruote, tre, se quattro non ce n'erano, perché ripeto, si andava a cercarli qua nei limitrofi, costruire praticamente come un piccolo contenitore a carretto, proprio a carro, salirci sopra e trovare le 3-4 strade in discesa, soprattutto perché era lì il divertimento, salirci su, magari inizialmente uno, poi in due, poi in tre. La nostra sfida era quella di riuscire a farlo più grande possibile, più veloce possibile e più robusto possibile. Potete capire, non c'erano freni, non c'erano situazioni buche perché le strade non erano belle come quelle di oggi, magari asfaltate. E quindi arrivavamo a casa più di una volta, noi usiamo il termine mondati, che voleva dire sbucciati dalla terminologia. Scusate su questi termini, proprio perché la nostalgia mi riporta proprio a usare questi. Ma il giorno dopo, fasciati e bendati, ripartivamo, non è che ci scoraggiavamo, andavamo avanti proprio con questo.